auspici. C'era la neve, ma un solo grande silenzio. C'è qualcuno qua? Chi è? Sento il bip, ma non capisco. Negativo, non ti ascolto. Attenzione, torre di controllo. Base chiama torre di controllo. Cambio. Chi è? Ho capito, buonasera, ma non ho capito di più. Giovanni? Da dove parli, Giovanni? Da? Non riesco proprio a tirarti fuori. Non puoi aumentare niente. Negativo. Sento il bip, ma non capisco le parole. Attento, Claudio. Attento, Claudio. Quattro e mezzo. Buonasera a tutti, sono qua, auguro a tutti quelli che sono in ascolto, non vorrei parlare, ciao a tutti, ciao. Ula ula i, ula ula i, ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula. Come mai non c'è nessuno? A nessuno serve un evento più 4, io di nuovo. Gianni Lo Profeta, cosa mi dici? Gianfranco, ci sei Gianfranco? Che è? Non ho sentito Gianfranco, non l'ho sentito. Non ho ancora radio attaccata, per 44. Chi mi cerca? Lo vedi a Gianfranco che è sempre in agguato? Sì, con 44 qua. Il segnale com'è buono, va bene così. 9.35 sei leggermente saturo, però forse stai spingendo un po' troppo. Leggermente saturo, già va bene la modulazione, già è ottima. Già va bene, che te devo dire. Avanti Gianfranco, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Sono entrato perché ho seguito solo una chiamata diretta di Roberto, se non sbaglio. Vabbè, mi volevi? Infatti ho detto, siccome erano sul 30, ho detto andiamo sul 10, cioè che entri qualcuno, poi ho detto vediamo se c'è Gianfranco e ha risposto al volo. Sì, infatti, però sono impegnato dall'altra parte, come al solito. Sono qua in semi-ascolto, perché l'ascolto c'è un... Comunque ero senza antenna di là, là con quel baracchinetto. Comunque la modulazione andava bene, là. Claudio, ho detto se la modulazione andava bene. Ma qual è la tua? Non questa, con quel baracchino che stava andando prima. Sì, va bene, va grande, no, non c'è problema. Adesso va bene la modulazione? Sì, sì. Ah, è rotto il porto di Vatti. Va bene, va bene. Quindi io Franco sto facendo cosa? Non capisco perché non ti arrivo a 40, che tu 135. No, lo supera 35, con i picchi quando parli va un pochettino di più, però a 40 non ci arrivi. Ehi, va bene, va bene. Io ho fatto la prova con Carlo, fermo all'aeroporto, in macchina, al parcheggio, non per pieno. Vabbè, tu sei molto aperto di lì. Cosa volevo dire? Hai visto Carlo Gnesegnalone che va? Ma quello che c'era ieri, quello Andrea, io non l'ho mai sentito. Forse no, io... Siamo molto amici con Andrea, abbiamo fatto i casini, si siede. Quando parlava oggi, lui lavorava alla cimenteria lì, quindi come per quanti anni la cimenteria che è chiusa e si lavora fuori. È un piscio che ci divertivamo un bello lui, Antonello, c'è una bella graffetta, Angelo Delfino, stavamo sempre lì sotto casa di Antonello a fare casino. Infatti ieri, quando stavo parlando, ho detto questo segnale 960, ho detto cos'è? Siamo vicini, infatti perché mi conosci? Poi ho collegato il fatto che era ad Antonello, infatti ho detto, piatta, e forse arrivi così forte, ma erano attaccati sicuramente, perché Antonello 960 non arriva pulito. Vabbè, siete tutti lì attaccati, non è quello il problema. Io ho riconosciuto subito la voce, come l'ho sentito parlare, ero in cucina e... Sono passato qua a salutarlo, capito? Ci conosciamo di persona molto bene. E io? Già sta pompando. Stavano dei picchi di modulazione, già ci sono. Sì, anche questa. Questa va da 40, 40, 35 watt, riportante a 60 modulati, fate i conti. Sto guardando la gente in mezzo manca, questo qua sta vendendo un 757, non il GX2 come il tuo, GX normale è 400 euro. Infatti ho detto, buh. Infatti già c'è un bene, no, io ho il GX757, GX2, cazzo, ci stai mettendo l'ultima serie proprio, l'ultima, vale 440, 300 euro, 250, 300, siamo lì dai. Quello vecchio, il precedente a quello tuo, cioè che voi, cioè non c'è logica, io sono iscritto a questi gruppi che vendono apparati così, ma prezzi fuori mercato, un S9, 650 euro, la gente buco. Vabbè, ognuno la roba si fa quello che vuole, poi bisogna se la vende, ma ritrova il pollo e la vende, capito? No, lo so, infatti no, ma con 650 euro mi compro un apparato serio HF, non prendo una cagata. Ma sapete quanto ho pagato il 940 io o il TS2000, cioè di cosa stiamo parlando, anche se io l'ho preso a un prezzo diciamo molto ma molto più basso di quello che è il mercato, però cacchio, c'ho un TS2000, non ho un S9. Ma infatti è come il solito discorso che facevamo noi quando andavamo a comprare i quelli modificati, la RAM 48, 500 euro, io l'ho comprato, quindi non è che sto dicendo di no, però non si possono comprare quei baracchini a 500 euro, io 500 euro ti compro una bella radio. Tu mi dirai che c'è un po' di lavoro, perché c'è quel tecnico che ti ha messo tutta la roba dentro, le ore di lavoro a farlo, niente da dire, però cacchio, uno, per questo devi comprare una parata HF, cioè non posso spendere per una 48, tu mi dici, perché sono un camionista, lo uso per lavoro, diciamo, per farmi compagnia, mi voglio far sentire, ma c'è gente che se lo teneva in casa, per far cosa? Lo so, vabbè, lo so, però è così. E così, ho comprato anche io, capito? E così, vabbè. Quindi la radio va bene, Alessia, bella? Sì, sì, vabbè, questo che cos'è? 430? No, questo è 140. Con l'MC50 modificato. E ci conferma. E la differenza, guarda, non si nota dalla 60 al 50, proprio non lo so, dovrei fare le prove proprio registrandolo, guardando le analizzatore e vedere, perché sono talmente uguali, proprio identici come modulazione. Quando un professionista fa le cose serie, c'è poco di tutte, si è messo dentro lo stesso circuito dell'MC60 e un microfono normale è diventato da un 50 è diventato un 60. E magari i componenti sono anche di qualità superiore, magari i condensatori, le resistenze di tolleranza, e magari riesce ad andare anche meglio. Non so, però lo manco aperto. Non lo manco aperto, ma sicuramente si è fatto su, se l'ha fatto il circuitino vuol dire che ha fatto bene. E non si sente, oltre che magari non lo vedi, però già si sente. Si sente, sì, e come si sente. Ehi, a chi c'è qua su questo canale, oltre a noi due, a Gianfranco in ascolto? Non so, non giaccio. E domani, arrossita? Domani arrossita? No, mia figlia lavora domani. Perché domani, non so, che la chiudono, non lo so, hanno deciso così, il suo lavoro, faccia lì. No, non c'è nessuno, siamo soli domani. Quindi lavorano anche domani notte? Non so cosa ha deciso, dopo quando viene lì lo chiedo, ma penso che comunque stiano in chiusura. Stiano in chiusura, ha già preso mi pare 2 o 3 extra, qualcosa del genere, non lo so. Non lo so. Cosa devo fare? Purtroppo il suo lavoro, la sua attività è grande, viene a casa a cenare. Prima ci poteva fare, adesso non si muove. Ma lei ha giorni liberi? Si prende quando vuole, si sta prendendo sempre il lunedì perché già si organizza le sue cose, perché la domenica mattina lei lavora, capito? Sino alle 2, alle 3, dipende, alle 4. E poi lo lascia il collega e se ne va, oppure chiude direttamente lì. E quindi si prende lunedì. Ma apro anche la domenica sera allora. Cosa, Roberto? Apre anche la domenica sera? Sì, allora. Certo. Non hanno giorno di chiusura, quindi. No, non ne hanno chiusura. Si fanno e tu, no? Perché prima i bar dovevano avere per legge un giorno di chiusura, o sbaglio? E prima sì, adesso no. Non ne fanno. Perlomeno lei non ne fa, capito? Meglio approfittarne, a te così quando verrà il lockdown, cacchio, che ha preso un sacco di dinaro e non gli hanno dato neanche uno spiccio. Ma infatti, non è che se c'è da lavorare, si lavora, cosa devi chiudere? Te l'ho detto, lei si prende lunedì come giorno di riposo per fare le sue commissioni, capito, spese, eccetera, però no, non ne ha di chiusura. Sì, adesso i sacrifici, poi quando raccimola qualche gruzzolo può mettersi qualcosa da parte e poi vale, piano piano puoi anche trovarti la persona e dici tienimelo tu e io mi incasso i soldi, ti do la gestione. Non penso, non è di quella mia figlia, lei si è entrata a lavoro non sa stare, nel senso che le piace troppo, capito? È la ragazzina che fa quel lavoro, poi la gestione ci stanno facendo la sua direzione, già mi sta mettendo abbastanza da parte. Un attimo, break. Non ho capito chi è. Ciao Mondi, buonasera. Molto basso stai arrivando, Come stai? Gappa, sono in compagnia di Roberto, vediamo un po' se ti ha sentito, lo senti a Mondino? Sì, ciao Mondino, da tanto che non ci sentiamo, Santiago 7, però ti ripeto c'è il QRM sempre alto, ma già riesco a tirarti fuori. E beh Mondino, come andiamo? Basso il radio, adesso non ho capito cosa adesso. Mondino, ma non puoi sollevare la radio appena? Stai andando col processore? Arrivi un po' bassino, dai, un po' bassino. Va bene, comunque già ti sentiamo. Così va meglio, lasciala così. Invece di metterlo l'hai tolto il processore. A me mi arrivi molto più basso di Roberto, io non abito più dove abitavo prima. non sono in campagna. Oggi a T100, Santiago 3 mi arrivi alla 10.5 adesso, la Roberta arrivi 7, vai Roberta. Arriva a 7 anche un pilottino di più, però c'ho molto QRM, certi passaggi non riesco a sentirlo bene, la radio non è 5, sarà 3 di radio. Tu mi ascolti bene Mondi? C'è molto QSB, c'hai, perché fai 7, poi ti abbassi a 6.5, poi superi 7. Un mortuglio questi giorni di festa, come mai siete tutti a tavola a mangiare ancora il panettone? Ma se no è cosa che ci l'importante, che stava parlando a Mondino. Cosa hai detto Mondino? Provalo, che ti hanno calpestato questi riportatori, che sono stravaganti, entrano senza ascoltare, senza niente. Beh, oggi l'amico mio. Posso, buonasera a tutti, auguroni a tutti ragazzi, ci siamo sentiti. Buonasera a tutti. Auguroni. E oggi no, c'è Mondino d'Alghero, però sta andando 6, 7, 8, è molto questa biccia. Mondi, riprova un po', vedi un po' stai combinando. Io ti sento, Mondi, basso basso, ma ti sento, Roberto forse no. Questo passaggio sta arrivando quasi 7, parla, però non capisco quello che mi dice. Cioè lo senti Santiago 7 e non senti quello che dice, come non ci compreso che è radio che vai tu. Io lo sento Santiago 1 e Radio 5, 1 Radio 5, capito? Sento un filo di corrente, c'è i segnali alti, però non capisci, vabbè. Buonasera Eugenio, ben ascoltato, avanti. Buonasera anche a Mondino, mai sentito comunque, buonasera, intanto non mi sente. Cazzo, una cosa, ma che antenna stai usando? Perché ha il segnale basso? Chi c'ha il segnale basso? Io. Teia, come stai arrivando? 3 modulati sei a 5, però non è il tuo segnale, come mai? Perché sto usando un pezzo di filo attaccato alla ringhiera. Aspetta che adesso commuto l'antenna perché non ero neanche accorto, caspita, è già troppo. Vediamo se è commuto, se mi senti meglio. Ecco qua, ho mutato l'antenna e se mi senti meglio. Sì, a voglia c'è il tributo, il tuo segnale è salito, Però abbassa un po' la radio perché è troppo compressa. Buonasera. Troppo compressa? E non c'è la ricompressione. Buonasera, che saluta. Buonasera anche a chi ha salutato. Io ti sento, si sente che sta spingendo troppo la radio, dovresti abbassare un pochettino. Bisogna abbassare un pochettino, adesso vediamo. Avanti, buonasera. Buonasera, buonasera, Mario Porto Torres. Ti sentivo meglio prima Claudio io, quando usavi, non so cosa stai usando, se stai usando il, come si chiama, il Galaxy, o col Galaxy arrivi bene qua, non so, invece con quell'altro, sarà una mia impressione però, come modulazione soprattutto. Ciao Eugenio, buonasera. Oh yeah, siamo qui, tutto bene? Vai pure Eugenio. Ehi, hey, buonasera Mario, mi hai sentito un po' tanto. Allora, ma sei a casa, no? Sei in macchina. Non ho capito Mario, cos'è che hai detto la modulazione? Allora, Claudio, la modulazione è meglio quella del Galaxy. Cioè io, guarda, ti ho ascoltato in questi giorni, non potevo entrare perché vabbè c'avevo cose da fare, però ti sentivo benissimo quando modulavi col Galaxy. Una modulazione veramente eccezionale, sentivo molto bene. Stasera invece mi sembra che sia qualcosa di diverso, non so cosa. Sì, sono a casa Eugenio, sono a casa mia. Adesso sei tu qua, adesso sei tu. Hai abbassato un po' la modulazione, Aisha. Prima stava spingendo troppo. Robe, confermi. Vai Claudio, sì, te l'hai abbassata anche di segnale un periodo, un passaggio. Comunque ciao Mario, ben sentito. Di nuovo saluto Eugenio, vai Claudio, quest'ultimo passaggio ti ho ascoltato bene anche io. No, non capisco Mario, diverso, un diverso cosa. Questo è il tempo, non è un baracchino, quindi questa è la mia modulazione Mario. Non so se tu sei abituato ad ascoltarmi con questi tipi di radio, però il Galaxy per me è un baracchino, quindi a volte lo accendo, a volte no, non è che mi interessi più di tanto. Tutto qua. Ah, ha saluto anche l'altro amico, che non pensavo fosse per questo, non l'avevo ancora sentito, perché io ho acceso appena appena, quindi ho sentito solamente il genio e sei Claudio. No, niente, io ti ho sentito col Galaxy, che stavi modulando col Galaxy, avevi una modulazione che per me, non so, ripeto, probabilmente era più orecchiabile, ecco, non... Era solo questo quello che ti volevo dire, però chiaramente sai, non so, io non conoscendoti di persona non riesco chiaramente. che poi magari mi sbaglio, è meglio non conoscere le persone, c'è sta gente, mamma mia, poi mi sa, l'ultimo produttore che ha piantato a Sassa e ci ha tradito, a cercare. Claudio si è perso. Avanti qua. Vediamo se Mondino c'è ancora. Ci sei ancora Mondino? Io ho il QRM quasi 7. Come c'era Mondino, lui arrivava più o meno quanto il QRM. Lo sentivo di segnale, però radio bassissima, quasi incomprensibile in certi passaggi. Comunque Mario, ho ben sentito Roberto da questa parte, a te ti ascolto perfettamente, oltre 9 di segnale, mentre Eugenio arriva a 9.10 con i picchi a 9.15. Troppo forte. Mario, ti sei messo l'antenna a casa? Come? Scusa, non ho capito, l'antenna a casa, ti sei piazzato? No, negativo, c'è sempre 9.009 con la solita antenna, sempre la solita baracca, diciamo, tutto lì, non ho nessuna, ti giuro, non ho fatto nessuna modifica. Sì, ok, non c'è problema. Si è presunto un problema del QRM a manetta? È chiaro che sì, adesso c'è la 5, è calato di un punto, prima era già, anzi due punti, perché prima era 7, però sì, vabbè, lasciamo stare, adesso riesco a portare un pochino meglio, ma sono convinto che dopo le feste ricomincia di nuovo, goglie. Roberto arrivi benissimo qua, arrivi, ti sento bene, quindi non ho nessun problema per ascoltarti, quindi anche tu segnale ottimo, 8-9, radio 5, vi sento tutti benissimo. Ok, grazie del controllo. Vediamo se Claudio è rientrato. Avanti Claudio. Sono qua. Non problemi. Ok, avanti Eugenio. Mi senti bene adesso Mario? Sì, la modulazione è bella? Telefono, scusate un attimo. Come segnale andavi meglio prima, come modulazione ti sento bene, sì. Ti sento molto bene. Io questa modulazione qua mi piace. Non so poi che cosa stai usando. Non credo che sia cambiata di moda, però guarda, c'è stato un paio di giorni che stavi usando quel Galaxy lì, ti sentivo perfettamente. Questo è un K, un Kenwood TS-140S. Il microfono è un MC50, che poi spinge come il 60, non cambia niente. Va bene. Avanti Eugenio. Mario, guarda che Claudio no, ha questa fortuna. Lui cambia apparato, ma la modulazione rimane sempre quella. Io non riesco a capire come faccia poi la sua modulazione, sempre. Io dico che ha la modulazione ignorante, perché è sempre bella, grossa, per potenza, e poi la sua voce, se lo conosci in persona, la voce è uguale, lui è brutto, ma la voce è uguale. Vedo che vi volete bene voi. No, ma ci credo. No, ma non è che la modulazione tra uno e l'altro sia peggio o meglio, è una questione mia, cioè io col Galaxy lo sentivo benissimo e ti dirò, lo sentivo anche più forte di segnale di come sta arrivando stasera, quindi non so poi chiaramente le vostre potenze regolabili, antenne o meno, ma probabilmente, non lo so, può essere anche che sia un fattore di propagazione, non lo so, col Galaxy lo sentivo meglio comunque, dai. Senza nulla togliere chiaramente alle vere radio, nel senso tipo quello che sto usando adesso, chiaramente. Tutto lì. Vai pure Roberto, ce ne sono. Roberto dal cellulare. Non lo so, questo te lo può spiegare meglio Claudio. Io lo ascolto sempre bene. Ascolto sempre bene e non ne posso dire niente. Il mio chihuahua. Vai. Sono rientrato comunque. C'è un saluto, boh, non so chi sia. Vabbè, c'è una differenza Mario, forse tu non sai, ma io sono abituato a chiamare radio questa che sto usando, cosiddetto apparato HF, mentre può essere grande quanto il mondo, però per me tutti gli altri sono baracchini, lo chiamo radio, ok? Quindi adesso sto usando un apparato HF, una macchina HF, mentre l'altro giorno usavo un baracchino chiamato Galaxy Saturn Echo base. Va bene, comunque così, te l'ha già spiegato Eugenio, quindi la mia voce è questa, sia in radio che di persona, non cambia assolutamente niente. Ho pochi capelli come chihuahua, capito? Quindi è per quello che andiamo d'accordo, perché non non ci abbiamo capelli, né lui né io. Avanti Roberto. Registrato, aspetta, c'era qualcuno che stava chiamando poco fa, avanti che voleva entrare. Ehi, Amondino, già è lui, claro, ho capito bene. No, è Giovanni dal terzo pettine, c'è anche il Bertie, mi pare, di Claudio. Giovanni. Ok, vabbè, comunque facciamo passare a Claudio e fa girare. In ruota ci sono io, Roberto, Eugenio da Porto Torres e Mario da Porto Torres, avanti Claudio. Ciao Claudio, ben sentito anche a te. Il nuovo radio è cambiato, io non ne ho una nuova tu. Ci sono anche gli amici del portatore, c'è Eugenio e Mario. Ti faccio venire avanti, Mario, se ti ha ascoltato. Mario l'ha ascoltato a Claudio di Muros. No, negativo, purtroppo non riesce a superare il QRM. Comunque se mi ascolta Muros, buona serata Claudio e ben sentito, non dico ben sentito, ma vabbè, facciamo finta, dai. Sì, no Claudio, ti dicevo, magari che io considero radio quella che tu stai usando adesso, sono del tuo stesso parere, questi sono baracchini chiaramente, però ciò non toglie che magari molte volte chissà su determinate frequenze possono andare meglio di altre. E niente, vabbè, poi ripeto, è una questione soggettiva. Vabbò, ascoltami Eugenio, io l'ho venduto quella parola là, poi ce ne parliamo io e te. Vabbò. Saluto anche Giovanni, se non erro, di Pratamona, che ci siamo visti prima, non so se mi ascolta, io non ti sento Giovanni qua da casa, non arrivi per niente perché ho il QRM molto alto, perciò non riesco ad ascoltarti. Arrivederci a te Eugenio, vai. Hey, hey, ciao Muros, buonasera, se mi ascolti. Niente, dai. Mario, non ce l'ho più a fare là, mi dispiace. Avanti, ce n'era una altra pezzine, poi di persona ti spiego. Avanti, il terzo pettine. Oh, stanno parlando in tre. Chi è quello che fischiava? Senta, Amondino sotto, terzo pettine è un altro più forte. Claudio, l'hai ascoltato Eugenio? L'ho ascoltato, però mi permetto a guardare. Ok, riprendo, sto andando col Gavrissatornetto, vediamo un po' se Mario mi ascolta. Mario, mi ascolti? Abbassa classe di social. Assolutamente sì, adesso c'è una modulazione enorme. Ah, scusa che ero troppo alto di Minky Gain. Ok, l'abbiamo abbassato, va bene così? Così va bene, dai. Vai benissimo, io ti sento perfetto. Ok, KK, va bene, questa è il mio baracchino preferito, ogni tanto lo facciamo andare, visto che hai detto ti piaceva la modulazione del Galaxy, allora stiamo andando col Galaxy. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, cordialità in casa, avanti Eugenio. Ehi, hey, Mario, mi hai sentito quello che ho detto? Sì, ho sentito. Chi è che sta sotto qua? Grazie Giovanni, grazie. Come ha detto Eugenio, io purtroppo, anche se cambio radio, non cambia mai la mia modulazione, quindi va bene così. Colpa di Chihuahua. Avanti, Muros. Modulazione con questo Galaxy, mi ha detto come arrivi qua da casa. per me è pure troppo alta, dovrebbe abbassare, mi sta facendo il sordo. Chi era l'amico Giovanni, così, quello di Tazzopettine? Avanti, se mi ascolti. Ma sei in movimento, perché poco fa ti ho sentito un picco, a meno che non sia un'altra persona, no, adesso sei 7. Allora, chi è avanti l'altro che stava chiamando? Ha parlato, quando parlava uno ci metteva un altro sopra, l'altro era 9. Ok, avanti a te Claudio. Ma devi specificare che Claudio però. Claudio torre controllo, l'altro dico Muros, così ci identifichiamo subito. Va bene, ho abbassato ancora il Mickey Gain del microfono, perché lo gioco in un'altra radio e quindi evidentemente era troppo alto. Va bene. Sì, beh, questa già pompa la radio e non è una. Questo baracchino, non chiamiamo la radio, questo baracchino va bene perché non ha praticamente i suoi watt, è un po' tirato, quindi già cammina intorno ai 30-40 watt, tutto qua. Avanti Mario, riprende e fai girare. Io non sento nessuno. Ma anche io. Scusate, ma di nuovo Mondino c'è sotto? No, io non sento più a Mondino. Ma che sta parlando? Lo sento parlare, poi ce n'è un altro che lo scusa sopra una modula. Sono ancora il terzo pettine. Mi ascolti a me Giovanni? No, ti ascolto, la radio non sarà 3 di radio, il segnale ce l'hai, 6-7 di segnale. E Eugenio probabilmente è quello che ti ascolta meglio di tutti, come l'ascolti tu Eugenio? Io proprio qua, però non arriva. Come non arriva? Non arriva, non lo sento. Ecco, lo sentiamo a Sassari, e Claudio, quanto ti arriva a te? Chi, Robert? Giovanni e altri toppetti. Santiago 5. Strano che il portatore forse vabbè, è nascosto un pochettino. Avanti Muros. Sì, KQSL, io purtroppo non riesco a tirarmi fuori con Eugenio qua, sta guardando perché lo altissimo, perché la mia antenna si carica parecchio in QRM, capito, dunque, la roba mi diverto l'altra sera, non sono riuscito a risolverlo ancora questo gruppo, e non questa è fa dall'accordatore, sicuramente non mi ha dato qualcosa fuori, oppure da qualche condizionatore, come viene con l'altra sera, non sono riuscito a risolvere. Dico un po', Robè, sta andando bene questo software, campo, come il Santiago, come la modulazione, quindi K. Santiago con i picchiari di quasi 9 più 20, radio 5, bella, va benissimo. Non è eccellente come mai in altre occasioni, però ti ascolto bene, perfettamente. Gappa, è importante che si faccia così, quindi va bene. Gappa, no, già vi fate sentire tutti, non c'è problema. A voglia che va bene. Ok, avanti, OJ. Io... Claudio, ti sento Santiago 1, molto basso, e vabbè, evidentemente la distanza non va bene, comunque, e niente, no, Robè, non sento per niente quello del terzo pettine. Ecco, doppio room, avanti, doppio room. Buonasera a tutti, dai, lo so che ci sia, ho acceso in questo momento, sto per andare a casa. Buonasera a tutti, cordialità, doppio room da questa parte, avanti. Ehi, sei in compagnia lì. Me medesimo, io, il più bello, il più tolto, il più simpatico, il tutto, il re di Porto Torres, poi c'è il re dei carrozzieri che è lì, la Sassa è vicino a te, che ha conosciuto anche me Roberto, poi c'è lui l'immenso, il messia, colui che era, che sarà sempre Claudio Sparviero, avanti. Capo, io saluto cordialmente. Avanti Claudio, poi fa girare per quello del terzo pezzo, adesso l'ascolto. Sì, ma dovete specificare chi Claudio, però io sono Claudio Sparviero, l'altro Claudio Chiora Ruggito di Muros, capito? Buonasera Gianni Doppio Rum, ben ascoltato. Mi pare Giovanni si sia spostato. Giovanni, terzo pettine, ci sei o non ci sei, o ti fai? Cappa, Santiago 8 qua arrivi, dai. Va molto bene, dai. Vabbè, noi siamo in linea d'aria, magari più vicini. Io ti ascolto bene, dai. Ti ascolto bene anche di radio. Buonasera. Sei nuovo oppure hai ripresa modulare? Cappa, no, non hai capito. Eri un vecchio CB oppure sei un nuovo CB? Siamo lì a dire cose come stanno. Ti hai comprato il baracchino da poco oppure ce l'avevi da prima? Cambio. Qua arriva Santiago 7, 7 ti arriva 8 e sei di fronte, a me mi arriva 7 e sono da tutta l'altra parte del mondo. Giovanni, ti hai comprato il baracchino da poco o ce l'hai da molto il baracchino? da Vito Dio. Va bene, no, qua sì, Santiago 7, S7, io sono 4 km da Sassari, una zona abbastanza alta, ma non ti vedo, mentre con Gian De Oturum vi vedete. A lui arrivi 8, a me mi arrivi 7, però io sto usando la 7 ottavi come antenna trasmissione e ricezione, lui sta usando la 5 ottavi, però è più vicino a te sicuramente, ecco perché mi arrivi così. Va bene, faccio girare per Roberto, avanti Roberto. O abbassi la voce o abbassi il microfono, mi sei assorbendo. Ok, no, Giovanni, prova a parlare quanto mi arrivi. Sì, Santiago 7 qua. La radio non è 5, tipo sono alle 3 di radio. Ok, vediamo il carissimo amico, numero 1 a Porto Torres, il più forte barcaiolo, il comandante di primo grado di Porto Torres. Avanti, oggi. Grazie, magari. Va bene, San Giorgio, cos'è? Se l'ha comprato da poco o era un vecchio cimino? No, ce l'ha da tanto, ma sicuramente l'ha piazzato da poco. No, beh, cazzo, ma cosa può passare? Ce l'ho a tre, ce l'ho il microfono, se lo abbasso a te, cazzo, non esco più, cosa devo fare? Così lo devo tenere. Avvio vai, mollami, te, pompa, vamos alla playa, già ne ho più rumore, dille qualcosa. Cazzo, ogni volta che attacco il Galaxy mi fa abbassare il microfono. Ah, no, Claudio, c'ho il Cobra, ti volevo dire a poco fa, poi non sono entrato perché tocca da Roberto. Il Cobra c'ha uno svitolo di minzo. Lo so, ma più di nove non mi dai tu, già va bene. Ma comunque l'ascolto bene, anche di radio l'ascolto bene. E già va bene quella zona. Dove sono io? E a Puglia va bene. Sono andato a Santiago Nova stamattina a Carlo, parcheggiato fermo lì a Fertiglia. Non mi posso lamentare, io sono contentissimo che ho perso ben poco, perlomeno le zone che avevo prima le copro tutte, anche con buoni segnali, quindi non c'è problema. Vero Chihuahua? Claudio Sparviero! Senti, dillo di spostarsi a Giovanni, che io non lo sento. Non so se lui mi sente, ma non credo. Lei è in macchina. No, non penso sia a casa, Giovanni. Ma hai sentito Chihuahua? Ha detto che ti ascolta bene, sei tu che c'è l'antenna sorda. Capito, Va bene. Avanti, Muros. Sì, 5SL, Sparviero, grazie per il mic. Sì, e saluto a Gianni Doppierù, un poco fa che non ho avuto occasione di salutarlo, perché non mi avete rilanciato. Buonasera, Gianni, ben sentito, cordialità anche a te. Sparviero, comunque la modulazione va bene, lasciala così, perché prima eri troppo basso, ma mi è abbassato, per me va bene così, e poi non lo so, da Roberto magari ti storce, magari perché sei più vicinanza, capito? Però va bene così, riprendi Gianni, a te il microfono, con la buonasera. Capo Claudio, buonasera anche a te, dai. Scusa se mi sono scordato di salutarti, è stata colpa mia. Sì, vabbè, un po' di vintiumine a queste tacce, da. Ogni tanto provo a prendere qualcosa, poi non mi ricordo che cosa avevo preso. Sì, capita già, capita quell'età. Mi arrivi comunque, Santiago 9, 5, Radio 5. Sì, che cose di piano? Complimenti, riprendi il quadrato. Aspetta che c'è qualcuno che forse vuole entrare. Avanti, chi vuole entrare quando stai parlando? Buonasera, non lasciate due secondi di fianco. Chi sei, Danilo? No, sceriffo Porto Torres. Noi vogliamo di una futti se non lasciamo 5 minuti di bianco. Mica dobbiamo parlare con te, hai capito? Sceriffo senza pistole. È il figlio di Cla, non è il padre ti conosce, il figlio no. Ah, chi è? Sceriffo ancora? Antonio, chi sono, capito? Ah, sceriffo Junior, la vendetta. Oh, yeah, yeah. Quindi sei sceriffo 2 tu, e l'altro è sceriffo senza pistole, così è. Ma che è Antonio? No, il figlio di Antonio è questo. Ma il figlio è? Salutalo a babbo. Guarda che stanno scherzando, non se la prendono, stanno scherzando. Chi? Cazzo già offeso, c'è? Wow. Allora non ci parlare con me se ti sei offeso, diglielo a tuo padre. Capito, Avanti, Roberto. Lei è fulminato, non so se c'è un ragazzo o giovane, lei è fulminato. Perché c'è tempo brutto, ci sono i fulmini, i tuoni. Non ce l'ha giunto nulla. Pensavo che Antonio Sceriffo, io conosco Antonio e siamo coetanei e ci conosciamo la vita, quindi mi posso permettere di dire queste cose. Sceriffo, Logico che quando vedo a Claudio lo picchio la partita, non ti preoccupare. Ma cos'è, grande o geo? Piccolo, no? Non so, non lo conosco. Un giorno parlando mi aveva detto che era il figlio, perché il padre è il fratello di un mio collega, capito? Il padre già lo conosco di vista, però lui non lo conosco. E già lo so che il fratello di Antonio è tuo collega, già lo so, non c'è problema. Avanti, doppio Roma, mi senti bene? Sì. Roberto, adesso sono troppo alto di radio. Ma cosa, io ti ascolto bene. Cosa ti stavo dicendo? Io so anche dove abita, so anche la porta dove abita. Perché tu eri sindaco di Porto Torres? C'è anche Mario, in rossa, Mario. Scusate, io no, riprendo solo perché sono stato maleducato prima, non sono andato senza salutarvi. E siccome io sono già la pappa pronta, vi saluto adesso. Saluto tutti e grazie delle due chiacchiere, vi auguro chiaramente di passare un felice ultimo giorno dell'anno, se non ci sentiamo, e ovviamente anche un buon inizio, quindi tanti auguri a tutti quanti, è una buona serata. Avanti pure chi tocca, ma io non riprendo più perché sennò la papa mi si rappresenta. Allora riprendo io, Mario, dai. Contraccambio tutto al 100, buona notte a te e famiglia, dai. Ci sentiamo, avanti Muros. Sì, 5SL Gianni, sì, grazie per avermi rilanciato, sì che proprio adesso mi devo assentare, proprio mi ho voglia di andare a accendermi la pipa, a farmi due fumate da. Comunque, amico di Sassari, non riprendo mai più questo barraccio, ciao. Se non ci sentiamo domani sera, Daffi, rinnovo gli auguri di buon anno, capito, hai a tutti, ritenetevi tutti salutati, poi se devo rientrare domani, dai, ci facciamo un'altra chiacchierata, perché ho anche delle cosette da fare al computer, Daffi, super, saluto a tutti, saluto a Sparpiero, a te, Roberta, Eugenio e tutti quelli che sono in ruota, che li sento passi e anche quelli SWL che ci sono in ascolto. Io purtroppo rimango in QRX che voglio andare a fumarmi la pipa, ciao a tutti, riprendi Sparpiero. Cappa, va bene, ciao Claudio, allora saluti a casa, buona pippata, anche per te buon fine anno e buon inizio se non ci sentiamo, vediamo domani se mi ho voglia, ci sentiamo, se no ve li faccio già la luce. Avanti, Roberto. Ehi, dai, ricambio le auguri a tutti e due, sia a Mario che a Claudio Di Muros, a loro in famiglia idem compattate. Chi tocca, Eugenio? Ma però non ho capito cosa vuol dire senza pistole, quello di prima. Lo sceriffo senza pistole, sono quegli sceriffi che sono bravi, capito, che non sparano mica. No, io avevo capito un'altra cosa, che... Ma tu devi stare attento allora, perché io non è che ti ho offeso, attenzione. Ti ho detto sceriffo senza pistole, capito? Uno che non spara, mi. Guarda che sta solamente scherzando, non ti offendere, non ti offendere. Ah, ok, va bene. Sì, ciao, ciao. Alla prossima volta quando senti a me non c'entrare neanche, fammi il favore, dillo a tuo padre che te l'ho detto io, così siamo a posto, Ciao, buon QRT, avanti Gianni. Da, è nuovo, non sa come comportarsi ancora, dai. Va bene, dai, ciao sceriffo, salutami a babbo, dai. Sì, tanti saluti dallo più rumo. Ok, grazie, te lo saluto. Avanti a chi tocca, Roberto. No, riprendo io solo per chiarire la situazione prima che magari si capiscano male. Sceriffo non ci conosciamo, però non era niente di offensivo. Claudio se lo conosce a persona tranquilla, per cui ha fatto soltanto una battuta senza nessuno scopo di offesa, per cui non te la prendere assolutamente e soprattutto mai arrabbiarsi qua in radio. Ricordati che la radio è un divertimento. Ok. Non ha detto il nome però, io ti sto chiamando sceriffo, non ho capito il nome, se lo vuoi dire? Tore ci chiama, Tore, vieni avanti. Dimmi. Hai sentito cosa ti ha detto l'amico Roberto? Sì, sì, ho capito, capito. La radio è fatta anche per scherzare, quindi non te la prendere. Poi sono persone che sia Claudio che Roberto, che Doppio Rum conoscono bene tuo padre, quindi non ti preoccupare, stanno scherzando. Poi ti ripeto, a Claudio due baciati di la faccia gli dicevo io quando lo vedo in persona. Ehi, ma mai di buonire quanto mi prima parlo, scusami. non ho capito cos'è che hai capito. Quando ti ho detto sceriffo senza pistole, cos'è che hai frainteso? Fammi capire, perché sono curioso. Oh, mi ha detto di entrare da questa frequenza, va bene. Pasco, io ho 62 anni e di gente permalosa mi ha giubito abbastanza, quindi mi sono già stufato. Ciao, buon QRT, avanti Gianni. Non è ancora capito, non è ancora ben entrato, non conosce le persone, quindi non sa come comportarsi, dai. Ma piano piano vedrai che capirai che siamo tutti pazzi qua. Sendo così me ne passa la voglia di entrare, capito? Che sia uno scherzo, non ti preoccupare. Guarda che... Cazzo, la Giovanni, Giovanni l'ha ridotto gas e gado. Tu l'ha visto in persona, allora abbassa tua testa, perché lo sa che con me c'è poco a scherzare. Vabbè, ma ci vuole, guarda, avete calpestato la Giovanni. Giovanni, cosa stavi dicendo? Ehi, Giovanni, ciao, buona serata, grazie per essere entrato. Se non ci sentiamo ti faccio i miei migliori auguri di fine anno, ok? Ciao, alle prossime, vai, doppio rombo. Capo, ciao Giovanni, nuovo, tanti auguri di buon anno, dai, se non ci sentiamo. Mettiti l'antenna sul tetto, quindi ti sentiamo ancora meno. Ti prendo io, ciao Giovanni, ti ricambio le auguri, dai. No, ma in macchina, ha detto, non è in coso già. Vai, Ugge. Ciao Giovanni. Non ti posso dire piacere averti sentito, a chi non sta giù più in teso. Comunque, rientra in migliori situazioni, dai. Noi siamo sempre sul 10. 27.075 la frequenza. Ciao, e buon anno e buon tutto. Ciao. Vai, torre di controllo a Del Mike. Dai, ci sentiamo, è passata la vita di Ragana. Ciao ragazzi, alle prossimine. Ah, ecco la Sabili, mamma mia, cacchio, ho detto divertiamoci, scherziamo e vediamo. Tra un giorno siamo al nuovo anno, cancelliamo tutto i problemi e riviviamo da capo, partiamo all'anno zero, dai. Vai Eugenio, non torre di controllo, torretta piccolina di Platamona, dai. Mi sa che con lo nuovo i problemi arrivano, arriva la roba da pagare. Non dirla a me, già. Eugenio, avanti a te. Ui. Ciao, io chiudi, vai lì. Ciao, auguri, buon fine anno. Io dai, chiudi e vai lì. Ma Roberto, cosa dice? A Claudio sta dicendo. A me! E tu ti permetti di dire certe cose. A Claudio stavo dicendo. Ah Claudio, allora non chiedo bene. Ma fate la brava, cacchio, pure il 30 vi mettete a fare gli scemi. Cacchio, ma devo entrare io a aprire la scatoletta degli schiaffi. La macchinetta degli schiaffi. La macchinetta, la scatoletta, quello che volete, dai, ve l'avremmo. Comunque, Tore, se ci sei, rimani, non ti preoccupare, dai. Qua si scherza, si ride e si balla. Tore, attento, Tore, sceriffo, ci sei. Tore, ma papà lo sta più modulando. Ciao, ciao, Tore. Fatela a prendere che si scherza. Ma non è successo niente di particolare, neanche niente di più da parte mia, almeno forse non so come. Ha fatto una semplice osservazione, probabilmente era convinto che era tuo padre, tra l'altro Claudio, che tra l'altro si conosce molto bene con tuo padre. Poi gli hanno detto che non era lui, per cui prendila come niente di offensivo, assolutamente, ma anche se fosse convinto che fossi tu, non cambia niente, era soltanto una battutina, niente di cosa, ci facciamo a pezzi quotidianamente con tutti, con qui, con qualcuno male anche di più, scherziamo e ridiamo tutti. L'ironia meglio sempre avversela, brutto quando non si accettano le battutine, tra l'altro non è niente di particolare. No, Claudio era come tu, era il padre, tu io guarda il figlio, non l'avevo capito, perché è sempre così sfuggita, ma poi vabbè, mica ha detto niente di... Oh, a me mi vado a pezzi. Ma me ne penso di averlo piazzato, guarda, da oggi giocate, guarda, me ne fanno tra la bocca. Addirittura, e quando mai? Va bene, dai, proseguiamo, adesso noi facciamo una malattia, non è successo nulla da parte mia. Ok, chi è rimasto qua? Torre di controllo grande, adesso se n'è andato a cucinare sicuramente, a rostire porcetti o agnelli o cinghiali. Poi c'è rimasto doppio room nella zona alta del monte, a Porto Torre c'è l'amico carissimo Eugenio, vediamo se c'è rimasto qualche donato che vuole entrare. Un secondino di bianco, lo facciamo vedere. Avanti, se no riprende Gianni. Io sono a Monte Furru, non a Monte. Sempre Monte, magari c'è Monte Bianchino, Monte Furro, Monte Tignoso, sempre molti sono. Sì, montagna, è tutto campagna, era dove facevo io, tutto campagna. Trinità dei Monti, Monte Limbara, Monte Racconti, Monte Tignoso, Monte Bizzino, allora c'è Ponte Bizzino. Questo è il Ponte, con disegno a ciocca, lì, adesso è quanto l'hai trovato, lumacche. Fatta. Un giorno sono passato in macchina, mi sono dovuto fermare, se no le schiacciamo, erano tutte in mezzo alla strada. Scommetto che ti hai messo le catene alla macchina, per esempio ci facevamo scivolare. Accenderano anche in mezzo alla strada, nel marciapiede, di fronte dove c'è il canile, tutto pieno. Un attimino, sto arrivando subito, un secondo. Ehi, Claudio, autore del controllo, se ci sei batti un colpo. Si deve essere allontanato. Chi è che sta parlando avanti? Ciao Carlo, stai rientrando? Ehi, dai, vediamo di farti compagnia per un pezzettino di passaggio. Santiago 7 qua, radio non è bellissima, però ti riesco a tirarti fuori. Tu mi ascolti? Che dai, questo passaggio è andato un po' meglio. E c'è anche doppio rum, avanti Gianni, ci ha ascoltato a Carlo, sta rientrando. Ehi capo, l'ascolto il copo. Ciao Carlo, non mi hai sentito? Questo passaggio Carlo ti si è abbassato, deve essere, c'è il QRM, capito? Quindi come aumenta il QRM ti si abbassa la radio, però ci sono certi punti che ti ascolto bene. Ciao, ehi, sono entrato a salutarti, ho detto sono qua, e anche qua c'è un po' di nebbia, infatti mia figlia è rientrata presto perché c'è nebbia, anche qua Monte Bianchino, visto si parla di monti è tutto nebbia, va bene dai, stai attento alla strada, poi già ci sentiamo, ti sento benissimo, non c'è problema, riprendi tu Robert. Addirittura Carlo, hanno chiuso l'aeroporto per nebbia. E come fa a atterrare Roma e Milano stasera? Ma perché non ha le condizioni di sicurezza per far atterrare gli aerei in caso di nebbia? Non lo sapevo, io a Bergamo 4-5 anni fa non vedevo la scaletta dell'aereo, c'ero al primo gradino della scaletta e non vedevo l'ultimo gradino per entrare dentro l'aereo, talmente era fitta la nebbia. Ecco, ma sono partiti tranquilli, infatti ha detto, e come fa? Tu mi dirai di la nebbia c'è sempre, c'erano 5 metri di visibilità, quando sono riuscito a vedere la punta dell'aereo, cioè dalla scaletta alla cima dove entra l'aereo, nello portellone non si vedeva, e addirittura l'aereo non c'hanno sistemi di guida in caso di nebbia. No, avevano messo tutte le cose dei fuochi, cosa, hanno fatto un sistema di cose di visibilità, però cacchio, non si vedeva niente, completamente buio, cioè buio, bianco, non buio. Ma non avevo mai visto una cosa del genere. All'Alghero una volta mi è capitato, per il vento non ci hanno fatto atterrare da Roma, forse Milano, adesso non mi ricordo che volo era. Non ci hanno fatto atterrare, ci hanno dirottato a Coso, a Olbia, ma c'era un vento il giorno. Poi un'altra volta che ero convinto che non atterravamo un paio di anni fa, che c'era un vento, secondo me peggio di quello, eppure siamo atterrati, ha fatto un atterraggio, il pilota allucinante, ha fatto il giro al contrario, ha preso di fronte il coso, il maestrale Olimpia, adesso non mi ricordo che vento era, molto molto forte, ed è riuscito a atterrare, c'era gente cagata sotto. Ok, chi è arrivato qua? Gianni, doppio rum a te. Non è parlare a me che una volta si sganciava il carrello dell'aereo, uia, mi sono fatto addosso, qui è atterrato, ha dato un colpo, faceva tum tum, tum tum, tum tum, non riusciva a aprire il carrello, e c'erano tutti terrorizzati dentro, c'è chi stava pregando anche. E niente, ha fatto due giri, anzi, ha detto come consueto, accendiamo le luci di cortesia, eccetera, eccetera. E fatto sta che stava per atterrare, e poi di nuovo è risalito, ha cominciato a fare due, tre giri attorno, sentiva questo rumore, tutti quanti strizzati, poi è riuscito a atterrare, abbiamo sentito un colpo, ci è salito il cuore in gola, pazzo di agoico. Di solito l'applaudo lo sempre il pilota, ma questa volta eravamo quindi tutti cagati sotto. Mia sorella invece, mia madre, mie zie, tanti tanti anni fa sono esplosi gli oblò, infatti un po' di gente si è fatta male, hanno fatto l'atterraggio di emergenza erano già in quota e sono esplosi la pressurizzazione, infatti qualcuno si è associato ai timpani, è successo un macello, era piccolina mia sorella, ma stiamo parlando 30 anni fa, stavo andando a Lourdes partendo da Alghero, quando sono arrivati in quota sono esplosi coso, non pressurizzava l'aereo, cioè, infatti, qualcuno si è fatto male, hanno portato all'ospedale, poi gli hanno dato per cercare di camuffare, ricordo mia mamma quando tutti ci hanno trattato peggio dei signori sauditi, dei ministri o cosa, dei principi, dice poi gli hanno portato tutto da mangiare, da bere, l'anguria, i dolci, proprio cercando di scusarsi, però qualcuno ci ha rimesso i timpani. E cavolo, se stai avendo certo che succede così. Oh yeah. Come già io soffro un po' di cassofobia, perché quando mi vedo al chiuso, come chiudo il portellone dell'aereo, già mi sento strano. Aspetta, facciamo riprendere Eugenio, riprendi tu. Eugenio, sulla, Carlo, ci sei, batti un colpo. No, guarda, io morirei, cazzo. Tu mi dirai, quelli aerei intercontinentali sono molto più grandi, più coso. Io faccio un'ora e mezzo di aereo e sono a pezzi, perché mi fanno male le ginocchia subito, non mi piace stare seduto. Quelli aerei lì ti puoi anche alzare, sono molto più confortevoli quelli intercontinentali, però, cazzo, già lo so, io ho mia cugina che lei vive negli Stati Uniti, già ne fa di aerei, l'altro amico carissimo che lavora in Indonesia, vive in Indonesia, quando va quello prende tre aerei, l'altro che è andato in Sudafrica l'altro giorno, lo stesso, tutta una tirata ha fatto, Roma, Johannesburg, sì, già lo so. Vediamo se l'amico carissimo del portatore si è rientrato. Eugenios, c'erano 40 persone poco fa, uno sopra l'altro, ma non viene nessuno. Claudio, torre di controllo, io sento sempre questo parlare sotto, chi è? Avanti, chi parla? Guarda, ti sento nel fondo, non so chi sei, non riesco a capire. Vediamo se Mario è dalle tue parti. Carlo, hai sentito parlare? No, capito, io non ho sentito niente, ho sentito che ha chiamato Eugenio, poi Claudio, però poi non sentivo più nessuno. Se no sono quelli di Ozzieri, li senti già tu questi? Sì, sotto fondo. Non c'è muro, se no lui ci diceva se erano loro. Li sento Santiago sì, però c'ho il cuore almeno troppo alto, non riesco a capire quello che sta dicendo. Lui probabilmente ci ascolta. Sì, io ci correvo. Non può essere neanche Franco, perché Franco già si fa sentire quando è ad Alghero. Non lo so, se fosse stato Franco Mario l'ascoltava anche Carlo. No, ma non è Franco, infatti io l'ascolti, c'è l'antenna grande Franco. Non lo so. Carlo, dove sei arrivato? Adesso sono al bivio di Bancaliera, ho superato. Santiago 8 qua, Radio 5. Gianni. Ho disceso la macchina e subito la radio, ho sentito la tua voce e poi ho sentito Gianni, ho sentito Gianni. Sì, sì, capo. Vediamo se è rientrato proprio rum. Sì, adesso sono io, sì. È che ho un po' di splatter dal 23 e non ne comprendo nulla, a volte quando parla Carlo si riporta dietro. Sono entrato io. Riprendi, ok. Buonasera di nuovo. Oh, yeah. E dovevo portare fuori il cartone, ma avevo un sacco di cose, panettoni, regali, intaccato, mamma mia. C'è Carlo che sta rientrando all'Alghero, vediamo, te lo rilancio, Eugenio. Tu la piatta fa l'antenna a casa, Carlo? No, è macchina, casa è una bomba, numero uno, non ce n'è per nessuno adesso. La piatta fa l'antenna a casa? Sì, arriva quasi 9,60, da me, fatti un conto, poi da Claudio Spalviero, peggio che mai, da tutte le parti a muro, su, arriva fortissimo, molto più forte di me. Sì, vabbè, ma a casa non devi fare col paragone, non vuoi, siete attaccati, è normale. Ci avete le antenne, quando c'è vento uscirono e si toccano. Ma non siamo attaccati, cioè voi siete come si sono attaccati, è molto più vicino a Pompugno, ma lui c'è con 5 watt e ti sto dicendo con 5 watt ti schiaccia tutti. Vabbè, ma comunque siete vicini, quanto ci sarà da te a lui? Lui mi ha detto che è vicino al bowling. Sì, vicini siamo molto vicini, però lui a muro arriva molto più forte di me. Da Claudio mi schiaccia. Vabbè, le posizioni, sulle posizioni. Io lo voglio sentire a casa, io ancora non ho sentito a casa. Carlo, ci sei? Sì che ci sono, Eugenio, già ti chiamo da casa tra un po', come arrivo? Mi faccio sentire. Adesso dove sei? Sei una bomba adesso. Adesso sono praticamente alle porte di Sassari, ma sto entrando da Bredanietta perché devo passare in Viale Umberto a ritirare mia figlia adesso. Eia. Andate. Figlia, stai uscendo bene adesso, si sente bene. Eia, adesso sono quasi da Conforama, le curve prima e poi esco da Conforama. Papà, quella è la zona buona. 9:10 Radio 5, Carlo. già va bene, ormai sono vicino a Sassari, capito? Ormai sono dentro, dai. E dopo faccio qualche prova se ci siete ancora quando rientro a casa, ma voi già l'avete già sentita l'antenna nuova. Devo fare qualche regolazione, portarla un po' su in alto e levare un po' di carico.